Lascia stare il mio parere, tanto c'è sempre qualcosa che viene a farmi male. Piuttosto sciogli quei bei capelli, lascia al vento il tuo tempo passato e non ti giustificare. Guarda che le cose che ti dico non si amano, se devi amare devi amare me. Qui non si diventa e non si inventa, qui, qui la parola chiave è casualità. Bello morirei, e tu lo sai, Dio se lo sai, per questo spingi forte tanto da sfondare, al mio cuore elastico, e quando spingi troppo in fondo, restituisce con più forza e butta via, questo so di te, questo forse pochi sanno, la tua vita sfrattata a momenti, ti era anche piaciuta. Stai pensando, elaborando, e accompagni il dovere più grande che passi lunghi e stanchi. Guarda che le cose che ti dico non si amano, se devi amare devi amare me. Ci morirei, hai dentro al cuore sempre mille bolle blu, che vola. Posa